Strip Trip, un viaggio nel mondo dei fumetti con Alessandro Chiarella. Bella ragazzi, benvenuti, questa è la quarta puntata di Strip Trip, questa è Radio Bawalla. Qui con me c'è Davide in regia che vi saluta tutti e io sono Ale. Allora, dove eravamo arrivati l'altra volta? Vi ricordate? Avevamo cominciato a parlare di come si fa un fumetto. E eravamo arrivati all'inchiostrazione e abbiamo parlato un pochino delle tecniche di inchiostratura, di disegno, eccetera. E quindi a questo punto ripartiremo proprio da lì. Spero che vi ricordiate come si inchiostra, di cosa avevamo parlato, delle tavolette, dei pennelli, eccetera. Oggi ripartiremo dal colore, come si colora un fumetto, come si faceva, come si fa, come si va avanti dopo ancora il colore e come si conclude e come si pubblica un fumetto. Più in generale vi consiglio magari di leggervi Capire il fumetto di Scott McCloud, lo trovate in libreria, credo, se no su internet fate una veloce ricerca. Scott McCloud, McCloud, Capire il fumetto, facilissimo, gli date un'occhiata, è un fumetto a sua volta, quindi sarà facile. E bene, ci lanciamo subito un pezzone e poi partiamo alla stragrande. Questi sono i The Monster Brother con Anoim Right. Bene, bentornati, questi erano i The Monster Brother, non è la prima volta che li ascoltiamo e mi piacciono, infatti spingo sempre per metterli perché mi piacciono davvero, sinceramente, bel gruppetto, bei pezzi. E bene, andiamo avanti, parlavamo della colorazione del fumetto, siamo arrivati con la scorsa puntata all'inchiostrazione. Inchiostrazione, quindi abbiamo i nostri bei disegni inchiostrati, colorati di nero con le ombre eccetera, oppure in linea pulita, in base alla tecnica che il disegnatore o voi preferite usare. Una volta a questo punto si andava di acquerello, oppure si utilizzavano i Pantone, che sono dei pennarelli molto molto molto comodi da usare. Se volete provare a colorare un po', si trovano in molti negozi d'arte, insomma, sono abbastanza facili da trovare e ve li consiglio se vi divertite, sono molto carini e semplici da usare, oppure le ecoline. Adesso diciamo che sempre col il problema della velocità di colorazione, con la possibilità di spaziare tantissimo, tutti praticamente usano i software digitali, il computer e la tavoletta grafica. A questo punto vi racconto magari un pochino dei software che si usano per colorare. Partiamo dallo strapotere, dallo stragrandissimo Photoshop che praticamente tutti usano, almeno tutti quelli che lavorano nel campo grafico, pubblicitario, piuttosto che fotografia, o insomma molto usato per modificare immagini, per colorare, disegnare, un sacco di cose. Questo è il più usato, ma non per forza il più specifico. Infatti sempre tra quelli a pagamento c'è anche Corel Painter, che per chi piace proprio sbizzarrirsi è fantastico, perché si hanno un sacco di pennelli, pennarelli, si può scegliere la carta su cui si va a disegnare, insomma un sacco di cose molto molto molto particolare. Bisogna sbatterci un po' la testa all'inizio e non è facile, però insomma, con un po' di esercizio si fa facilmente. Dopo questi che sono a pagamento, vi butto lì un paio di software open source. Partiamo da MyPaint, che diciamo vuole fare un po' il verso a Corel Painter. È open source, quindi potete scaricarlo liberamente. Fate una veloce ricerca su Google, MyPaint, lo trovate subitissimo, c'è sia per PC, Mac, Linux, tutto. Molto semplice da usare, vi scegliete il vostro pennello, dimensione, eccetera, e spennellate con la vostra tavoletta grafica o, se non l'avete ancora, col mouse, giusto per provare. Oltre a questo c'è anche il classicissimo GIMP, che è, o GIMP, insomma lo si chiama un po' in tutti e due i modi, che chi usa Linux, Ubuntu, insomma lo conosce già. C'è anche un particolarissimo Alchemy, lo trovate al sito al-chemy.org, mi pare. È molto particolare, serve per fare degli schizzi da cui poi andare avanti, non per colorare. Comunque provate a darci un'occhiata, è divertente. Questi sono i software per colorare. Ovviamente la colorazione, anche questa, può essere una professione per il fumetto seriale, cioè c'è un colorista, c'è una persona che fa solo quello di lavoro, e sono molte le persone che lo fanno anche in Italia, perché è molto, molto difficile, è un lavoro molto particolare che impiega molto tempo. A questo punto ho finito anche il colore, si passa poi al lettering, ma ce lo ascoltiamo dopo questo pezzone che esce un po' dal canone dei pezzi che scelgo di solito. Sono gli Erbam con Beat 'Em All. bello, un po' diverso dal solito, anche un po' palloso forse sul finire, ma siamo tornati, non addormentatevi, siamo ancora qua e stavamo parlando del fumetto, di come si fa il fumetto. Allora, eravamo arrivati alla colorazione, abbiamo finito di colorare il nostro bel fumetto con le nostre ombre, forse un giorno faremo poi una puntata proprio dedicata ad ogni singolo elemento di questa fase, e comunque adesso abbiamo finito di colorare. Siamo al lettering. Cos'è il lettering? Allora, in ogni fumetto abbiamo i balloon, i fumetti appunto, le dide, le didascalie, come avevamo detto nella scorsa puntata, e tutto quello che c'è scritto dentro questi balloon, queste didascalie, una volta era scritto a mano. C'erano proprio delle persone che insomma erano un po' dei calligrafi, mi viene da dire, che scrivevano tutto a mano con la loro bella penna. Adesso ovviamente questo lavoro è un po' decaduto, cioè caduto in disuso, perché anche qua siamo sull'onda dei PC, molto più veloce, molto più facile, si scrive, abbiamo la nostra bella font e voilà, tutto fatto. Però ci sono ancora dei casi particolari in cui si scrive a mano. Questo, senza andare troppo lontano, GP in qualche suo fumetto lo fa ancora. GP un giorno ne parleremo, ve lo prometto, ma sicuramente qualcuno sa già di chi sto parlando. Oppure Macox, che è un altro disegnatore italiano che fa molta satira ultimamente, lo trovate sul suo blog eccetera, comunque date un'occhiata. Lui scrive proprio a mano con la penna, come disegna direttamente in digitale, scrive anche i testi nei balloon. Comunque ancora oggi c'è chi fa il letterista di lavoro e scrive proprio i testi, che spesso è la stessa persona che fa anche il traduttore magari per opere importate. Fatto il lettering, abbiamo il nostro bel fumetto completo con i testi, con le immagini, tutto colorato, inchiostrato eccetera. Sembra finito, invece c'è ancora un pezzo, cioè la copertina. Quando voi andate a comprare un fumetto, la prima cosa che vedete cos'è? La copertina. Più delle volte purtroppo trae in inganno la copertina, cioè è l'inculata, l'inculator, come diceva Davide a un certo punto di questa sera, che vi trae in inganno, perché l'inculator, allora, l'inculator è un'applicazione per Windows 8 che in pratica è una calcolatrice su cui disegni, quindi calculator e ink, e hanno pensato bene di chiamarla inculator e qua è nata l'inculata, ecco. Comunque, tornando a noi, non divaghiamo che qua il tempo stringe. Dove cazzo stavo parlando? Ok, la copertina. Eravamo alla copertina, l'inculator dei fumetti, la copertina. Soprattutto a me capita con i fumetti americani, guardo la copertina e ma che figo deve essere questo? Lo apro e mi trovo i soliti colori piatti, il disegno piatto che non mi piace. Dico, ma affanculo, tutte le volte finisce sempre così. Perché? Perché c'è il copertinista. Il copertinista è il disegnatore che fa solo copertine. Ce ne sono tantissimi, soprattutto negli Stati Uniti, come vi dicevo, e ce ne sono tantissimi italiani che sono veramente bravi. Vi cito Dell'Otto, che è fantastico, soprattutto un sacco di copertine di Spider-Man, e Massimo Carnevale, che è assolutamente il mio favorito, e che ultimamente ha disegnato anche in Italia per Dylan Dog con Mater Morbi, che ve lo consiglio se lo trovate usato, se no riuscirà in riedizione per la VAO. Comunque, copertinista. Il copertinista fa la copertina, la colora, si preoccupa lui di fare solo quello, sempre per il fumetto seriale, sempre che non ci sia un autore unico per il fumetto. Di questo ancora parleremo dopo, adesso vi lascio ancora con un pezzo che, se non erro, dovrebbe essere Tripping di Paul Lisa and After the Ice. We'll be right back. chiudiamo qua Tripping di Paul Lisa and After the Ice. Mamma mia, che nome complicato. Poi per me che pizzico la S, ahia, va bene. Dai, andiamo avanti. Stavamo parlando delle copertine, abbiamo il nostro bel fumetto finito e ecco, che differenza c'è? Ve ne ho parlato mentre discutevamo di come si fa un fumetto, della differenza tra fumetto seriale e fumetto autoriale. Allora, il fumetto seriale, come vi ho già detto, è quello che vediamo in edicola, come i Bonelli, che sono Dylan Dog, Tex e compagnia, come Topolino, insomma quelli che appunto hanno una fase di produzione costituita da più personaggi, da più figure, che, di cui ognuno si occupa di una fase, come c'è il disegnatore che arriva fino all'inchiostro, c'è il colorista, c'è il copertinista, eccetera. Mentre invece il fumetto autoriale, che è quello che ultimamente in Italia sta andando un pochino di più in voga per chi lavora, diciamo, è costruito, fatto, scritto, colorato, disegnato, copertinato, letterato, fatto tutto dalla stessa persona, per questo autoriale, un solo autore che si occupa di tutto il fumetto, quindi la storia è la sua, gli argomenti sono i suoi, dice quello che vuole nel limite del possibile e cambia tutto quello che vuole fino all'ultimo momento, fa insomma un po' tutto quello che gli pare, sempre sotto la guida dell'editore, perché comunque in un certo senso anche loro sono dipendenti, cioè devono stare alle regole dell'editoria. Di questo, cioè questa sera abbiamo Semplice di Stefano Simeone, che come vi dicevo è un fumetto autoriale perché scritto, disegnato, colorato, copertinato, fatto tutto da signor Stefano, che se volete guardare qualcosa di suo prima di comprare il fumetto, trovate il suo blog, che è stefanosimeone.blogspot.it. Non è difficile, cercate Stefano Simeone, sarà sicuro la prima voce su Google che trovate. Questo fumetto è, beh, si intitola Semplice. È semplice perché? Perché la storia tratta semplicemente di un ragazzo di provincia nella sua cittadina, un lavoro in fabbrica come tutte le altre persone, ma sente, nota la differenza dalle persone che arrivano da un'altra città, si innamora di una ragazza che è nata nella sua cittadina ma studia o lavora nella città lontana, e lui lotta all'interno di sé a questa lotta tra il reale e il sogno, nel senso, lui da bambino voleva essere un supereroe, voleva essere fantastico, voleva avere grandi capacità, invece si ritrova ad essere semplice, ad essere una persona semplice, senza particolari superpoteri, o come si lancia nel fumetto a immaginare di avere grandi superpoteri, grandi occasioni, grandi lotte, eccetera. Invece non è così. Ci ascoltiamo ancora un pezzo e poi dopo continuiamo a parlare di Semplice. Vi lascio con Ain't No Stopping Her degli Actar Actar. Yeah. eccoli qua, gli Actar Actar. A me piacciono molto anche loro. Ricordano un po' gli Arctic Monkeys, forse ve l'ho già detto, però dai, bella, bella. Allora, stavamo parlando di Semplice, il fumetto di Stefano Simeone, edito da Tunue, forse non l'avevo ancora detto. E, beh, semplice, ma che poi di fatto non è così semplice, perché il disegno è molto lavorato, ha dei colori molto belli, secondo me, molto giocato sui colori, danno molta atmosfera. E ci siamo, mi piace. E poi registicamente parlando, secondo me è molto studiata, è molto lavorata sulla regia, anche tramite i colori, tramite le immagini a tutta pagina, insomma, secondo me è da vedere. Se vi piace il genere fumetto italiano un po' introspettivo, però divertente, quasi comico, dai, ci sta, provate a dargli un'occhiata e poi fatemi sapere. Ricordatevi che abbiamo sempre la pagina Facebook, scrivetemi, perché per ora siamo un po' a vuoto, nel senso scrivo solo io, ma è un po' una palla, che social network è se parlo solo io, dai, scrivete. Allora, siamo in chiusura, le prossime puntate magari le puntiamo un po' sui film, sul cinema, come nasce dal fumetto, quali film magari non famosissimi sono tratti da fumetti un pochino più famosi, ma non per tutti, ecco. E non so, cominciamo magari questo viaggio sul cinema dal fumetto, sul fumetto dal cinema e viceversa, parleremo sia del fumetto che del film. Magari vi racconto un po' cos'è Pinterest, voi sapete forse già cos'è, parliamo di immagini, condividere immagini, io lo uso tantissimo, se volete cercarmi mi trovate su Pinterest Alessandro Chiarella. Non è difficile, se no scrivetemi su StripTrip la pagina e vi rispondo, vi mando il link, insomma, cominciate a girarvela se volete, la prossima volta ne parleremo più approfonditamente. Se vi interessa parleremo anche un po' di software, sempre per colorare e disegnare in digitale. Insomma, mi piacerebbe che interagiste, che mi scriveste, non abbiate timore, sono un cazzone, anche se non sembra dalla mia voce la domenica sera, ma mi piace ridere e scherzare un po' come tutti, forse più di altri, e spesso per questo vengo sgridato, ma non importa. Dai, siamo in chiusura, vi devo lasciare ancora un pezzettino, Cendrillion dei Lomé, con l'accento sulla E, sono francesi, bella, mi piace. Ragazzi, la prossima domenica, buona serata, ciao. Fait gagner qu'un vice, à cause de toi j'ai le rire jaune.